man grande senza te. Non mi importa della luna, non mi importa delle stelle, su per me sei luna stelle, tu per me sei sole e cielo. Yeah.